I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. L'operazione dichiarazione dei redditi è entrata nella lunga fase che porterà i contribuenti a presentare il modello entro il 7 luglio, anzi, a dire il vero, già si parla di una possibile proroga al 25 luglio. Comunque, dal pomeriggio di ieri è possibile intervenire sul proprio 730 precompilato e lo si può fare modificando, correggendo, integrando i dati oppure accettando la dichiarazione dei redditi così come il fisco la predispone. È il secondo anno della dichiarazione precompilata che resta sperimentale ma che quest'anno offre insomma molti dati in più. Ci sono buona parte delle spese sanitarie, ci sono le spese per istruzione, ci sono tante detrazioni importanti previste dal nostro confuso sistema tributario. Sappiamo però che nonostante gli sforzi l'affidabilità delle informazioni riportate nel modello deve sempre essere verificata e sappiamo sin d'ora che anche quest'anno la maggior parte dei circa 30 milioni di contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata rischiano di dover modificare o integrare il modello, perdendo così il vantaggio di non subire controlli formali, vantaggio che ricordiamo è previsto solo per chi accetta il modello senza fare modifiche. Le banche dati non sempre sono aggiornate come dovrebbero, il sistema di detrazioni e deduzioni è troppo complesso, troppo articolato e frammentato per poter funzionare in modo automatico. Quindi bene la dichiarazione dei redditi precompilata, ma non facciamoci illusione, perché la strada di un fisco semplice è ancora molto lunga. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Ancora una giornata di passione sui mercati finanziari e soprattutto su quello italiano, dove il crollo delle banche, l'ennesimo purtroppo, sta compromettendo l'indice di borsa, l'indice maggiore ovviamente, e soprattutto la performance rispetto agli altri mercati. L'Italia perde più degli altri, oltre il 3%, le banche sono sotto accusa, soprattutto per quanto riguarda la loro tenuta, però in realtà bisogna continuare a guardare oltre e soprattutto oltre il caso italiano, se non altro per capire che i nostri problemi sono spesso il riflesso di quelli degli altri. Ma di che cosa stiamo parlando? Da stamattina si dice che il rallentamento cinese abbia condizionato l'andamento dei mercati a livello mondiale, che su tutti i settori pesano le scarse prospettive di crescita a livello globale, ma in realtà ci sono anche delle ragioni che riguardano proprio le banche, in particolare una. Da questa mattina il titolo più colpito a livello internazionale delle vendite è quello di Deutsche Bank, perde oltre il 6% e teniamo presente che Deutsche Bank è considerato un po' un riferimento per l'intero settore creditizio europeo. Sono sotto pressione le banche tedesche, l'effetto dei derivati e il pericolo che il rallentamento possa far esplodere delle crisi, soprattutto tra l'Inghilterra e la Germania, i paesi dove le banche hanno più derivati nei loro bilanci, ebbene sono queste le realtà che in questo momento preoccupano, forse anche più dell'Italia. Purtroppo l'Italia, per la sua fragilità, diventa spesso il bersaglio anche dei problemi degli altri. In realtà guardiamo oltre, guardiamo anche quello che è successo oggi, in una giornata molto negativa, il debutto di Tecnogym, l'azienda italiana che realizza gli attrezzi per palestre, per la fitness, ma che soprattutto ha creato un modello di vita intorno alle macchine sportive, beh, il debutto è andato con un rialzo dell'11%, come dire, non sempre le banche fanno la giornata e soprattutto quando ci sono aziende che valgono e che sanno guardare avanti, il mercato le capisce bene. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.